Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.08, Paolo Corleone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Partiamo con il nostro sommario. Depressione, un disturbo che fa differenze di genere. Sali d'alluminio, se ne parla su internet. Impara un massaggino per il tuo bambino. La depressione donna, dicono i dati, ma attenzione perché in questi ultimi anni gli uomini stanno recuperando terreno. Anche se con modalità e tempi diversi, il sesso forte si confronta con un disturbo che lo fa sentire fragile, senza energia, inadeguato, malinconico, senza voglia di vivere. Il disagio emotivo si associa spesso a sintomi fisici, stanchezza, palpitazioni, vertigini, disturbi del sonno, perdita di appetito. In un primo momento si dà la colpa allo stress, al lavoro, ai problemi economici. Poi improvvisamente si perde un po' il controllo della situazione che si fa più severa e precipita nel buio della depressione, una malattia che fa paura, che è difficile da accettare, ma che invece si può prevenire e curare guardandola negli occhi, un po' come si fa con qualsiasi altra malattia, senza sensi di colpa e soprattutto senza pregiudizi. Ne parliamo oggi insieme al professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, finalmente... Buongiorno a lei e agli ascoltatori. In studio abbiamo Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E anche Alessandro Pellizzari di Starbene, vice caporedattore di Starbene. Buongiorno. Finalmente anche tu sei riuscito a venirci a trovare. No, perché è qualche tempo che questi appuntamenti... Ma io soffro quando sono distante da te. Perché sai che noi portiamo benessere. Assolutamente. Professor Mencacci... predilige le donne ma non risparmia gli uomini e io vorrei andare oltre i numeri e provare a declinare la depressione in base all'età e al sesso. Sicuramente ci sono delle differenze, d'altronde professor Mencacci, da anni ci dite che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini. Sì. È profondamente diverso e ha delle evoluzioni diverse, le donne hanno molto più materia grigia, gli uomini hanno più sostanza bianca e questa nell'arco della vita ci espongono a delle situazioni diverse di depressione. È vero, sembravano che gli uomini fossero per numero, e lo sono ancora, ridotti rispetto alle donne, ma come dire, stanno facendo passi da giganti in questa malattia importante che apposta venga riconosciuta per quello che è una malattia sistemica che coinvolge più apparati del nostro organismo, da quello cardiocircolatorio a quello immunologico a quello ormonale e a quello soprattutto della produzione di questi ormoni neurosteroidi. Allora, questa condizione dell'uomo fa sì che l'uomo che solamente nelle situazioni più drammatiche si avvicinava alle cure, le donne hanno una maggiore tendenza a ricercare aiuto e anche si fanno maggiormente carico della propria salute rispetto agli uomini, ma adesso anche gli uomini si rendono conto, soprattutto legati alle grandi difficoltà spesso lavorative e delle condizioni di stress alle quali soprattutto nel nostro mondo sono maggiormente esposti, anche loro incominciano a rivolgersi agli specialisti per trovare delle cure importanti, e importante che gli specialisti le riconoscono perché loro presentano qualche sintomo diverso rispetto al genere femminile. Di cui sicuramente parleremo, intanto invito le nostre amiche e gli ascoltatori, i nostri amici da casa a chiamarci all'800 24 0024 per raccontarci eventuali sintomi sospetti, oppure se vivete accanto ad una persona che sta vivendo questa malattia, volete avere dei consigli dal professor Mencacci per aiutarlo, scriveteci e chiamateci, il numero per i messaggi è il 349-238-6666. Allora, sicuramente sappiamo di più di questa malattia che il professor Mencacci ha proprio sottolineato, una malattia sistemica che investe tutti i distretti del nostro corpo, però possiamo dire che i pregiudizi sono ancora duri a morire. più comuni, ad esempio scambiare la malattia per un problema esclusivamente psicologico, o ritenere che l'unica terapia giusta sia farsi forza a reagire oppure aspettare che passi, o ancora liquidarla come espressione di un periodo di forte stress. E star bene, Alessandro, nel numero in edicola cerca proprio di fare chiarezza distinguendo lo stress dalla depressione. Avete anche un test? Sì, hai detto bene, perché molto spesso si cerca di procrastinare il momento in cui si vede il medico dicendo, dando la colpa allo stress. Siamo tutti stressati, solo che lo stress, quando arriva a certi livelli, può non essere stress e quindi possiamo veramente avere a che fare con la depressione. Allora abbiamo preparato con i nostri esperti un test, diciamo, di ingresso. Se a queste domande rispondete in un certo modo, saprete se siete stressati molto o così così, diciamo, ma soprattutto saprete se dovete subito rivolgervi al medico, perché siete entrati in quella molto importante, dire, malattia sistemica, che è la depressione. Quali sono le domande che riporta a star bene? Rapidamente, sfruttiamo anche la tua voce. Guarda, speaker quasi. Grazie. Come scrivono le nostre ascoltatrici quando vieni in studio. Ah, davvero? No? Sì. Mi fa piacere. Sono domande molto semplici. Ti senti infelice per buona parte della giornata? Hai più difficoltà a prendere delle decisioni? Piangi spesso? Il pianto è uno dei segnali importanti. Ti senti inquieta e agitata? Il futuro ti sembra tetro? Fra l'altro, noi siamo un femminile di salute, come tu sai, che viene letto anche dagli uomini. È verissimo che gli uomini stanno aumentando. Voi pensate solo a quante persone stanno perdendo il posto di lavoro. Certo. E questa è una botta che non è indifferente anche per un uomo che ha le spalle larghe. Professor Mencacci, le domande riportate da star bene ci aiutano? Sono domande di un'autovalutazione, sicuramente poi da confrontare con il proprio medico di famiglia e poi ovviamente con lo specialista, che ribadisco è lo psichiatra in assoluto. E direi una cosa, aggiungerei, che lo stesso procrastinare, allontanare le decisioni e le scelte è uno dei sintomi cognitivi della depressione. Quindi lo stesso attendere lo dobbiamo, e noi lo consideriamo come un segnale lieve ma già indicativo di quelle alterazioni cognitive. Quando dico cognitivo vuol dire quella difficoltà di concentrarsi, di attenzione, di memoria, di capacità di fare delle scelte, di prendere delle decisioni, che sono tutti i sintomi che precedono poi la comparsa della depressione vera e propria e quella conclamata. Quindi abbiamo già fornito ai nostri ascoltatori qualche indizio. 800 24 0024. Alberto, ti ho coinvolto perché un altro aspetto su cui lavoreremo oggi, oltre alle differenze di genere, è l'età. Infatti la depressione, la vediamo anche noi nelle puntate che facciamo per Questa casa non è un albergo, è in crescita fra giovani e adolescenti. La situazione è sotto i nostri occhi, che purtroppo non sono sempre attenti. Sì, e devo dire che il concetto di differenza di genere vale comunque anche per l'adolescenza, perché paradossalmente anche negli adolescenti maschi è molto più difficile riconoscere la depressione, mentre le ragazze hanno le cosiddette modalità internalizzanti, quindi con la loro introversione, solitudine, si chiudono in camera, abbandonano molti dei loro interessi sociali, lanciano segnali che fanno magari più facilmente capire che sono depressi. I maschi sono molto in fuga, spesso hanno comportamenti rabbiosi, inspiegabili, che mascherano il loro stato depressivo, che poi però alla lunga può emergere anche in modo molto grave. Parleremo anche di papà. Il professor Mencacci, spesso si è parlato di depressione postpartum, anche i neopapà sono a rischio. Proprio così, abbiamo fatto uno studio, uno studio importante che replicava uno studio ancora più grande in Inghilterra, che è sulla depressione postpartum nei padri. Ne abbiamo analizzate alcune centinaia e anche qui abbiamo trovato purtroppo che anche i padri nel 5%, una percentuale pressoché simile ai papà inglesi, anche i nostri papà si ammalano di una forma di depressione, diciamo, che è considerata come tale, anche se più un disturbo dell'adattamento, così come lo chiamiamo noi specialisti, ma però è un momento di grande sofferenza, ma soprattutto è un momento nelle quali hanno grandi difficoltà a sentirsi diventare genitori, a riuscire a capire che la vita è cambiata e si sta modificando per questa nuova presenza, che ovviamente altera i rapporti e gli equilibri che erano precedentemente stabiliti, e rispetto a questo adattamento possono reagire in maniera, come dire, negativa, allontanandosi dalla coppia, allontanandosi dal bambino, esprimendo anche una grave sofferenza soggettiva e, come dire, una grave sofferenza somatica spesso. Quindi invitiamo anche i neopapà, se siete affetti da sindrome della covata, così è stata definita, vero professor Mencacci? Questo è più in altri paesi, erano più i sintomi del, diciamo, del parto. Sì. Per certi versi qui abbiamo invece il postparto, la difficoltà nel postparto proprio di diventare padre, di riuscire a pensare a questa nuova dimensione di genitorialità, e questo ci fa capire anche quanto è importante essere vicini a questi padri, perché poi saranno la coppia che dovrà crescere il bambino, e non è bene che uno si depatrizzi fin dall'inizio. Certo, Alberto Pellai ha tante storie da raccontarci a questo proposito, perché lui che anima i circoli del papà. Intanto aspettiamo le vostre storie, i vostri dubbi, i vostri racconti, 800 24 0024, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Adesso voltiamo temporaneamente pagina per occuparci di una notizia che in realtà aveva mosso già i primi passi su internet nel 2002-2004 e che ora, dopo un periodo di silenzio, è tornata a circolare. Riguarda i sali d'alluminio presenti in molti prodotti antitraspiranti, che secondo questa fonte sarebbero, pensate, responsabili dell'insorgenza del tumore al seno. Molti di voi ci hanno scritto preoccupati, chiedendoci di rispondere essenzialmente a questa domanda: è una verità o è una bufala? Giriamo subito allora la domanda alla dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno tutti. Ma è una grandissima bufala, ecco, purtroppo. Ecco, diciamolo. È una grandissima bufala, e su internet ne circolano davvero parecchie. E si era già, speravo che si fosse già sopita, invece è venuta fuori e di nuovo. E i sali di alluminio, che sono alla base degli antiperspiranti, cioè quel tipo di deodoranti che bloccano la traspirazione, soprattutto quindi adatti a chi suda troppo e a chi ha anche una sudorazione invalidante, perché non dimentichiamo che sudare troppo in certi casi può, certo, compromettere la vita sociale, può creare dei grandi disagi. Ecco, questi deodoranti qui certamente non è l'ingrediente più ecologico per la pelle, però non è assolutamente mai stato dimostrato che sia cancerogeno. Ora, al limite, quello che si potrebbe fare è magari sostituirlo o alternarlo a sali di alluminio più naturali, come può essere l'allume di rocca. Sa quella pietra, sì, che usano di solito gli uomini dopo la rasatura, esatto, o sbaglio? Esatto. Alessandro Pellizzari ad esempio non la conosce, perché si vede che non si taglia, non lo so, non la usi, perché ha anche una capacità di coagulare e di disinfettare, è un astringente l'allume di rocca. È molto più naturale rispetto invece... Diciamo che è più naturale, in certi casi non si può ricorrere sempre alla naturalità. Un'altra bufala terribile che gira su internet riguarda per esempio la cancerogenicità del sodio laureto solfato, l'SS... il sodio laureto e lauril solfato, sì, famosi tensioattivi che tutto sommato costano poco, derivano da sostanze naturali, sono biodegradabili nell'ambiente, non sono tossici per i pesci, per cui non sono così terrificanti, sì, sono disseccanti per la pelle, ma formulati bene possono essere anche utilizzati tranquillamente, certamente non sono cancerogeni, invece ogni tanto si leggono questi strilli che preoccupano un mondo di persone già preoccupate per tanti motivi. Devo dire che internet sta diventando un centro di grandissima disinformazione. Quindi insomma su internet ci dà delle informazioni, bisogna saperle scegliere. Nel caso, per qualunque dubbio, scriveteci come hanno fatto molti di voi e noi con i nostri esperti cercheremo di capire se sono verità o bufale. Dottoressa Serri, grazie e buona giornata. Grazie mille a lei, a presto. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci del tema di oggi, parliamo di depressione, una malattia che si insinua nella nostra vita, cambiandola, rendendola difficile, faticosa e buia. Ero pieno di incertezze, non sapevo più chi ero. Non mi sentivo a mio agio con me stesso. Era come se vivessi costantemente in un sogno. Eppure nessuno se ne accorgeva, perché in qualche modo interagivo con gli altri. Facevo ogni cosa in modo automatico ed ero terrorizzato all'idea di rimanere in questo stato per sempre. Allora, abbiamo sentito un breve estratto del Depresso Innamorato. Intanto arrivano tantissimi messaggi. Professor Mencacci, voglio leggerne subito qualcuno. Fiorella ci scrive: essere sempre molto arrabbiata e aggressiva, piangere dentro, che sintomo è? Beh, questo è uno dei sintomi che in primo luogo vanno valutati come sintomi depressivi. La rabbia, che non va mai dimenticato, che è anche un modo per non sentire il dolore emotivo che abbiamo dentro. Quindi partirei dall'idea del dolore interno che si manifesta attraverso la rabbia. Andiamo a Roma, ci chiama Marco, 800 24 0024. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Allora, diciamo, io così ero un po' incuriosito da il fatto, insomma, cioè della linea un pochino di divisione che c'è tra, se così si può dire, un aspetto psicologico e un aspetto più clinico, cioè quando appunto l'infelicità tante volte, no? Che è quotidiana, sì. Che magari tutti quanti noi abbiamo provato. Sì, anche la vita magari in effetti tante volte non va come vorremmo. Eppure quando invece in effetti tutto questo appunto deriva da un problema, se così io uso probabilmente un termine improprio, di sostanze cerebrali, cioè quando è che non dipende più da noi, ecco, forse la domanda giusta è questa, cioè quando è che qual è il sintomo? Quando è proprio che ci dobbiamo rivolgere allo psicologo, allo psichiatra? Ecco, lei dice psicologo e psichiatra, io sono già convinta subito, cioè lo so già che il professor Mencacci dirà ad uno psichiatra, e non perché fa lo psichiatra, professore. No, allo psichiatra perché è l'unico in grado di fare una diagnosi precisa che possa indicare se quella condizione di depressione è una condizione di natura psichica oppure una condizione di natura organica dipendente da altre malattie che come primo segno danno la depressione, e sono moltissime, quindi è fondamentale che sia lo specialista psichiatra. Ma domando una cosa importantissima, perché demoralizzati lo siamo stati, lo proviamo tutti, tristi lo sperimentiamo tutti, ma allora quando siamo depressi? Siamo depressi quando in un rapporto dove vediamo la demoralizzazione a livello più basso è 0, è a un livello più alto, quello di 8, 9, 10, è quando il nostro umore, il nostro interesse per la vita, il piacere per le cose che facciamo cala drammaticamente e soprattutto permane nel tempo. Non basta un giorno, due giorni, ma noi diciamo almeno 2 settimane, quasi tutto il giorno. Quindi è un segno importante sia di quantità di umore depresso che di qualità di umore e soprattutto nel tempo. Alessandro, volevi intervenire? Sì, professore, non è che la gente ancora un po' come una volta vede nello psichiatra una figura un po' troppo, come dire, invasiva? Cioè, non dico come una volta il medico dei matti, però... Lo psichiatra fa ancora paura, sì. Professor Mencacci. Questo lo so, ma perché fa paura ancora l'idea della malattia. Sì. E abbiamo, in come in tutte le cose, cerchiamo di presentarlo nella forma più soft, ma io ricordo una cosa, che questo fa perdere molto tempo e soprattutto ci sono molte persone che perdono anni invece di avvicinarsi alle cure, che poi ci sono oggi cure di tante modalità di cura, ma hanno prima di tutto il diritto di ricevere una corretta diagnosi. E tra le modalità di cura e di terapia c'è anche la psicoterapia. Esiste la psicoterapia, esiste con oggi successi ovviamente rinnovati e soprattutto con evidenze scientifiche. Bisogna anche qui sapersi indirizzare in chi ha gli strumenti, e strumenti umani soprattutto, ma anche strumenti tecnici per poter avere dei buoni risultati, e quindi di allontanarci da quella visione troppo sarcastica della Woody Allen di cure interminabili. Oggi le cure sono molto più rapide, sono molto più precise e soprattutto giustamente le persone si attendono anche degli esiti positivi. Vorrei sentire anche il parere di Alberto Pellai, che possiamo dire è psicoterapeuta, e quindi il tuo approccio, ma prima lo faremo nel corso della trasmissione. Voglio dare la voce a Palmira da Roma. Buongiorno Palmira. Buongiorno a tutti. Senta, io sono una mamma molto preoccupata, sì, perché c'è un ragazzo adolescente di 16 anni che praticamente da un bel po' di tempo, forse più di un anno, non è più lo stesso. È sempre triste, non sorride mai, non ha piacere nel fare niente, e tantomeno ultimamente neanche a scuola, non è più convinto dell'indirizzo che ha preso, ma non saprebbe nemmeno prenderne un altro, perché dice: io non provo interesse veramente per niente, non so che fare. Tutti i discorsi che noi genitori cerchiamo di fare sono praticamente vani, perché lui dice che non riusciamo ad aiutarlo. E praticamente Palmira, ha fatto bene a chiamarci, perché è anche un tema che abbiamo affrontato più volte in Questa Casa Non È Un Albergo. Allora approfitto di Alberto e del professor Mencacci per dare un'indicazione a Palmira. Alberto, ma direi che proprio le parole che ha scelto Palmira per raccontare suo figlio, mancanza di interesse, mancanza di piacere, è come se fosse in stallo nella vita, fortemente bloccato e da un tempo così lungo, in realtà fanno proprio pensare a un quadro depressivo, rispetto al quale in questo momento credo che l'aiuto di un genitore non sia sufficiente, c'è bisogno di uno specialista. Professor Mencacci. Concordo con quello che Alberto Pellai ha appena detto. Direi che il tempo e la richiesta d'aiuto che questo giovane figliolo sta facendo mi sembra chiara. Lo cercherei con le parole adeguate di avvicinarlo ad un neuropsichiatra infantile, ma direi anche uno psichiatra esperto in adolescenti, perché è la classica età in cui non solo si chiudono, ma possono anche fare delle scelte di comportamenti anche molto a rischio, per cui è bene saper intervenire, ma soprattutto dargli un messaggio che può essere aiutato e che non è solo ad affrontare il presente e il futuro. Siamo tornati insieme al professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, ad Alberto Pellai e Alessandro Pellizzare. Stiamo affrontando la depressione, cercando di capire che differenze fa tra uomini e donne, soprattutto anche in funzione delle varietà. Ma come anticipato, voglio aprire una finestra sull'influenza A, e sembra che l'influenza sia andata più veloce della strategia vaccinale. Ne parliamo oggi col professor Giovanni Rezza, del direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, è partito il picco e i vaccini sono rimasti un po' indietro. E quello che mi chiedo è: laddove l'influenza ha già colpito, ha senso poi partire con la strategia vaccinale così come era stata prevista in origine? Beh, no, noi già sapevamo in partenza che non sarebbe stato facile anticipare l'esordio della curva epidemica con i vaccini, perché purtroppo le aziende, per quanto abbiano corso, più di tanto non si può la produzione ai suoi tempi. Certo. Anzi, siamo partiti con un leggero anticipo rispetto a quanto preventivato. Si ricorda, in un primo momento si diceva metà novembre, adesso invece ad anticipare sostanzialmente a metà ottobre. Perlomeno il Ministero della Salute ha consegnato le prime dosi a metà ottobre. Dopo, alcune regioni hanno cominciato subito a vaccinare, altre purtroppo ancora no. Però professore, insomma, ci ha un po' battuto sul tempo, diciamo così. Però l'influenza stagionale si sa, arriva dopo, invece quella pandemica arriva prima. E quindi il picco già l'avevamo preventivato più o meno per dicembre. In effetti possiamo confermare questa previsione, però la curva epidemica già è cominciata a salire, quindi è chiaro che le persone che già abbiano avuto l'influenza è inutile che dopo si vaccinino. Ecco, soprattutto parliamo, io qua in studio ho due papà, tra l'altro Alberto Pellai, quattro figli piccoli, tutti e quattro a casa con l'influenza. Quando Alberto? Sì, così è, nelle se loro ne classi uno, ne è arrivata, per cui loro sono tutti e quattro questa settimana stati bloccati dall'influenza. Ecco, ma vedendo Alberto, professor Rezza, vedendo Alberto sano e paffuto, io mi chiedo se un genitore se la scampa e quindi pur avendo i bambini con l'influenza non se la prende, possiamo dire che è come immunizzato, insomma ha una sorta di protezione? Questo non lo sappiamo finché non verranno messi a punto dei metodi sierologici, cioè dei metodi che ci permettano di rilevare nel sangue la presenza di anticorpi contro questo virus. Però che è chiaro che una persona, un adulto diciamo relativamente giovane, che non abbia malattie croniche, non è una persona a cui è indicato in questo momento la vaccinazione. La vaccinazione, ricordiamo, in questo primo momento è indicata soprattutto per gli operatori sanitari in modo da permettere la continuità lavorativa, evitare che gli ospedali per esempio si spopolino, cioè, di medici, rimangano a corto di medici, ed è indicata soprattutto per le persone che sono a rischio di complicanze gravi, quindi soprattutto malati cronici, persone con affezioni croniche delle vie respiratorie, del sistema cardiorespiratorio, delle persone che abbiano diabete e anche donne gravide nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. Professore, nel frattempo noi come sempre investiamo in prevenzione e noi lo stiamo facendo, stiamo cantando la prevenzione e andiamo a sentirla allora. Questa è lezione di prevenzione, lezione di prevenzione, viene a lezione di prevenzione, con la Norima ti faccio prevenzione. Lavati le mani anche molte volte al giorno. 2. Usa il fazzoletto per tossire e starnutire. 3. Se ti fa mal la gola, evita lavoro e scuola. 4. Evita gli sbalzi di temperatura. Con buon senso educazione ne ridurremo la diffusione al virus. Io do grazie a quello che io so. Professor Rezza, allora cerchiamo di dare un pugno al virus con le regole di prevenzione. Agli altri. Grazie. Non tossire in faccia agli altri. Ecco, mi raccomando. Professore, grazie per essere stato con noi. Buonissima grazie giornata. Grazie a voi, arrivederci. E noi torniamo insieme al professor Mencacci e ai nostri ascoltatori. Andiamo subito a Verona, ci chiama Giacomo. Buongiorno Giacomo. Buongiorno. Eccoci qua. Volevo fare una domanda. Bravo. Allora, io è da diciamo qualche anno che insomma soffro di disturbi depressivi e ho 21 anni. Giacomo, come se ne è accorto? Quali erano i sintomi? Così li ricordiamo rapidamente. Lei quando si è reso conto che il suo era non era dovuto a stress, non era un periodo di malinconia, ma ha chiamato per nome questo suo disturbo? Beh, diciamo che praticamente ti cambia il carattere, secondo me. Cioè, vivi la vita in uno stato quasi apatico, non riesci a far niente e provi grande sofferenza, non provi piacere nel far niente, nell'uscire con gli amici. E, Giacomo, lei si è fatto aiutare? Sì, però dopo parecchio tempo non sono riuscito ad accettarlo subito. Esatto. Senti, adesso se dovesse ripercorrere un po' la sua esperienza, che cosa farebbe? L'accetterei prima. Mi farei aiutare da subito senza far finta di niente. Ecco, mi sembra che il contributo che ci ha dato Giacomo, professor Mencacci, sia molto importante. Vito, che forse un giovane che sente che le sua, che gli cambia il carattere, la personalità, che non riesce più a avere quelle performance vuoi scolastiche, vuoi lavorative, e ha difficoltà a comprenderne un nesso, una connessione, è proprio così, è importante che si avvicini alle cure. Il messaggio è questo: le persone devono avvicinarsi alle cure, perché ci sono molte cure e, per fortuna, dobbiamo dire, cure che ci permettono di uscire dal tunnel della depressione. Ecco, noi adesso abbiamo le strade. Naturalmente, professor Mencacci, ma capita tutte le volte che parliamo di depressione con uno psichiatra, che diciamo che il professionista di riferimento è appunto lo psichiatra, si scatenano tantissimi messaggi, no? È lo psicologo, no? È il neurologo, anche lo psicologo può fare diagnosi. Insomma, questo è evidente che c'è un po' di confusione riguardo allo specialista a cui rivolgersi, anche dell'attribuzione delle varie competenze e anche un po' di paura. Torniamo ancora su questo aspetto con un contributo di Alessandro Pellizzari, di Una storia vissuta, direi. Allora, professor Mencacci, bisogna chiedere aiuto, farlo rapidamente, senza avere paura, senza pregiudizi. Lei proprio così, avvicinarsi alle cure, perché una risposta è un diritto delle persone, ma soprattutto il diritto a ricevere una diagnosi e poi delle corrette informazioni su tutte le possibilità di cura che ci sono. Che sono tante diverse. Sono tante diverse, ma è importante che ci sia lo specialista di riferimento che le conosce tutte e che può chiedere tutti quegli approfondimenti e accertamenti che sono indispensabili. Su questo la confusione è giusto che finisca. Alessandro. Sì, volevo raccontare una storia personale, perché penso che sia importante far capire alla gente come sia una malattia sistemica e come sia importante reagire anche come gruppo familiare. Mia mamma, quando noi eravamo adolescenti, è entrata in depressione, perché noi eravamo più liberi, lei non doveva più occuparsi così tanto di noi. E mi ricordo che è entrata in depressione in anni in cui la depressione forse si sapeva ben poco, c'erano pochi farmaci. Beh, lei viveva al buio a letto e noi eravamo anche arrabbiati con lei, perché non ci guardava, non reagiva, sembrava diventato un alieno. Per fortuna mio padre ha trovato questo medico che l'ha seguita. Beh, io devo dirvi che mia madre, nel giro di qualche settimana, con i farmaci giusti, era a fare shopping, era tornata se stessa. Mamma. Quindi io ho questo ricordo della mia adolescenza, di questa malattia che può trasformare una persona, ma che, se affrontata nel più breve tempo possibile dalla persona giusta, la superi, insomma, certo. Ti ridà quello che eri. Io ti ringrazio per aver condiviso con noi la tua storia, ma Andrea D'Alberto, che in questo ruolo, tu facendo lo psicoterapeuta, sei in questa posizione in cui puoi anche aprire una finestra sul ruolo dello psicoterapeuta. Anche tu, come il professor Mencacci, ritieni che sia utile passare prima dallo psichiatra? Perché di solito si pensa, forme lievi, se un po' di tristezza, stress, malinconia, vado dallo psicoterapeuta, dallo psicologo e risolvo; per i casi gravi lo psichiatra. Noi oggi stiamo lanciando un messaggio assolutamente diverso, come abbiamo fatto tante volte in trasmissione. Vorrei sentire la tua opinione, perché ti vedo con una faccetta di quello che vuol dire ma non dice. Ma guarda, io in realtà sono poi uno psicoterapeuta comunque atipico, nel senso che la mia è una formazione medica. Presumo che quando un paziente si rivolge a uno specialista per una richiesta di aiuto, già ti porta parte della sua storia di vita, parte di quello che è, parte anche di quello di come è fatto, di come funziona neurobiologicamente. Presumo che rispetto al molto che viene offerto dalla medicina e dalla terapia, proprio anche farmacologica, per l'aiuto alla depressione, lo psichiatra rimanga comunque un punto di riferimento per ogni psicoterapeuta che si accorge di avere un paziente che ha bisogno di una terapia integrata, di una terapia complessa. Presumo anche che la diagnosi possa essere anche fatta dallo psicoterapeuta. Secondo me il confronto con lo psichiatra, ad ogni modo, è una garanzia e per lo psicoterapeuta e per il paziente. Allora, professor Mencacci, possiamo dire un approccio articolato quello che funziona per la depressione? Sì, articolato, ribadisco, l'importanza è chiaro, sono con Alberto Pellai, che come dire, è importante quello che ha detto uno psicoterapeuta medico. E il fatto della conoscenza della medicina è un punto centrale. Noi siamo, come dire, molto favorevoli agli interventi di natura psicoterapica e psicologica, però abbiamo la necessità di dire diagnosi. La diagnosi la fanno i medici, essendo una condizione questa di clinica e quindi come tale. Credo che non cambi la filosofia, ma quello che cambia è la sicurezza delle cure per la persona. E a proposito di approccio integrato, io vorrei parlare di un progetto molto interessante basato sull'applicazione di un metodo, si chiama SKY, letteralmente Surdarshan Kriya Yoga, su pazienti affetti da depressione, ansia, generalizzati attacchi di panico, che è partito proprio al Fate Bene Fratelli di Milano e i cui effetti sono oggetto di una verifica non solo oggettiva, ma anche oggettiva. Ne parliamo con la dottoressa Stefania Doria, che è medico psichiatra e responsabile scientifico del progetto SKY. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Abbiamo solo 2 minuti di tempo per parlare di questo progetto che ci tengo molto a far conoscere, perché porta in pratica le tecniche della respirazione. Sì. Allora, nell'armamentario terapeutico. Esatto, sarò molto sintetica. Allora, con il respiro noi riprendiamo il controllo completo di mente e corpo. Il respiro è una funzione molto, molto fisiologica, molto importante, che noi con il tempo ci siamo dimenticati. Certo. Attraverso il respiro avviene un processo importantissimo chimico, che è l'ossigenazione del sangue. L'ossigeno è la base di tutte quante le cellule del nostro corpo, di un funzionamento del nostro corpo. L'ossigeno è fondamentale. Allora, in condizioni di stress, cosa avviene questo? Che avviene che il respiro torna a essere molto superficiale, per cui non svolge la funzione che deve fisiologicamente svolgere. Con queste tecniche che noi applichiamo all'interno del Fate Bene Fratelli, che sono delle tecniche mirate, sono delle tecniche seguite attentamente da un trainer proprio di questo tipo di yoga, noi insegniamo una modalità particolare di respiro che rientra in una tecnica yogica antichissima che si chiama Sudarshan Kriya Yoga. È una tecnica che deve essere appresa, certo. Non può essere, come dire, improvvisata seguendo uno o due. Assolutamente. Basta, assolutamente no. Quindi noi però abbiamo... poi una volta imparata si può portare a casa. Certo, certamente. Allora, senta, dottoressa, la buona notizia è che i pazienti possono accedere ai gruppi terapeutici SKY con il pagamento del ticket. Certamente, perché questo procedimento, questa tecnica utilizzata rientra nelle tecniche cognitivo-comportamentale, quindi sono tecniche che sono riconosciute, sono tecniche su cui si può fare sul pagamento del ticket. Sì. Allora, io ringrazio il professor Mencacci per essere stato con noi. Grazie professore, torni quando presto. Quando vuole, torno quando mi chiama. Grazie, dottoressa Doria. Alberto, noi ci vediamo sabato. Alessandro, 2 strilli di copertina ancora per star bene. Abbiamo parlato di influenza, ne parlate anche voi, sì, medici. Abbiamo chiesto ai nostri esperti se si vaccineranno o no e perché. Vi segnalo dossier integratori molto serio su quali sono i migliori e anche le cicatrici, che so che ci tengono le signore. Sì, anche voi, Ecco, sì, anche noi è vero. Le nuove tecniche per cancellarle, abbiamo fatto il punto. Allora, abbiamo fatto il punto e io vi saluto rapidamente. Grazie davvero per averci seguito, per essere intervenuti. Io rimango sempre a vostra disposizione. Scrivetemi a essere benessere@radio24.it. Buona giornata. Essere e benessere.